Sing to the Lord a new song. Sing, sing, sing, sing, sing, sing. Praise His name, praise His name, praise His name. Canta Iaunari, Canterveria, Canta, Canta Iaunari, Canta Iaunari, Lurgustia, Canta Iaunari, Canta Iaunari, Canta Iaunari, Iaunari, Hegin ha, let you harden Naya, Canta Iaunari, Canterveria, Canta, Canta Iaunari, Canta Iaunari, Nurgustia, canta, Iaunari, Iaunari. Benedicite nomini eius, benedicite nomini eius, annunciate diem de dies salutare eius, salutare. Cantate Domino, canta Iaunari, Canterveria, canta, canta Iaunari, canta Iaunari, Lurgustia, canta Iaunari, canta Iaunari, Canterveria, canta, canta Iaunari, canta Iaunari, Lurgustia, canta Iaunari. Iaunari, cantate, exultate, et salite, cantate, exultate, et salite, exultate, et salite, et salite, salite, in cittara, salite, voce salmi. Domino, cantate Domino qui a me, Rabbi. Cantate Domino, canta Iaunari, Canterveria, canta, canta Iaunari. Canta Iaunari, Lurgustia, canta Iaunari, canta Iaunari, Canterveria, canta, canta Iaunari, canta Iaunari, Lurgustia, canta Iaunari, Iaunari, Domino.